donnina bianca, magra e zoppa, che teneva bottega nei sobborghi di Teresina. Pereira vi andò da solo, in incognito, di notte, senza dirlo a nessuno, armato della sua parabellum, che non lo lasciava mai. Lanciò dei sassolini contro le imposte della santa, la pagò subito, poi le domandò due cose. Primo, cosa aveva detto al generale presidente? Gli ho detto che se non leggeva Lorenzaccio finiva come il duca Alessandro. Era pura divinazione. Lei stessa non sapeva leggere e ignorava del tutto quell'opera. E io? Come finirò io? Era la seconda domanda di Pereira. La Mae Branca praticava la divinazione tramite aspersione di profumo. Tuffava la mano in un grosso flacone di vetiver e poi aspergeva la stanza tutto intorno. Il profumo le dava alla testa. Lei si metteva a borbottare ruotando su se stessa, sempre più veloce, fino a diventare una vera trottola. Poi di colpo si immobilizzava e le si rivoltavano gli occhi. Solo allora invocava i santi del Candomblé. La cosa durava un po', perché le divinità brasiliane sono numerose e più numerosi ancora i loro antenati della Guinea e i loro discendenti caraibici. Con il flacone vuoto in mano, la Mae Branca tremava tutta. Pereira si annoiò come a messa. Il vetiver gli fece venire in mente la sua infanzia, quando al calare della sera la madre lo faceva vaporizzare nelle camere da letto per tener lontane le zanzare. Finalmente, all'acme della trance, la Mae Branca emise l'informazione. «Finirai massacrato dalla folla!» «Che genere di folla?» «Il genere contadino!» Pereira la uccise, colpendola con il calcio della pistola, e tornò a palazzo. Tutti pensarono che fosse caduta. Lui l'aveva pagata quanto bastava per un funerale decente. Una folla immensa seguì il feretro. Gente della città, ma anche molti contadini venuti da tutto il paese. Pereira vi si unì, in alta uniforme, per dimostrare a tutti che condivideva le credenze del popolo e a se stesso che la magia non esiste. Ben inteso, tornò vivo dal funerale, vivo e molto apprezzato. Perché agorafobico? Perché dopo il funerale scese la notte. E quella notte Pereira si domandò perché avesse ucciso la santa. Non era una crisi di rimorso, era un accesso di logica. Se non credeva alle sue predizioni, perché l'aveva uccisa? E se non aveva intenzione di crederci, perché era andato da lei? L'aveva uccisa con la stessa spontaneità con cui aveva ucciso il generale presidente. Era un attimo di panico nitido, se così si può dire. Con la stessa certezza con cui aveva sentito giungere l'ora del potere, aveva capito che quella donna ne annunciava la fine. L'aveva uccisa d'istinto, come uno che si difende, per scongiurare una sorte cui fino a quell'omicidio lui non credeva. Si era dato il proprio battesimo di superstizioso. Questi pensieri, segretamente maturati nella sua testa sulla tomba della santa, ora sbocciavano nel letto di Pereira. Dunque credo a queste stupidaggini,